Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. And the winner is, well, the time has come, Catherine Bigelow! Data 7 marzo 2010. Luogo, il Kodak Theater di Hollywood, Los Angeles. This is the first Academy Award and second nomination tonight for Catherine Bigelow. Ebbene, tenere a mente queste coordinate, perché sono già passate alla storia. La voce che avete appena sentito è quella di Barbara Streisand, che annuncia con aria emozionata e commossa la vittoria di una donna nella categoria più ambita degli Academy Awards, quella riservata al miglior regista, anzi, alla miglior regista. Lei è la nostra prima protagonista di oggi. Il suo nome è Catherine Bigelow. Catherine Bigelow! Grazie a tutti. Questo momento, davvero non c'è altro modo di descriverlo. Questo è il momento che racchiude una vita intera. Mai una donna, prima di quella data, ha avuto accesso alla statuetta più preziosa. Nel corso di oltre 80 anni di storia degli Oscar, ci avevano già provato Lina Wertmüller, Jane Campion e Sofia Coppola. Erano arrivate a un passo dal podio, ma avevano mancato il gradino più alto. Catherine Bigelow lo ha conquistato anche per loro, segnando un risultato sacrosanto e dovuto, visto il talento e la professionalità che la contraddistinguono. Un risultato grandioso, l'ennesimo della serie di conquiste in rosa che hanno segnato la storia del Novecento. La tradizione delle prime volte al femminile nel secolo scorso è cominciata presto e bene. Nel 1903 Marie Curie vinse il Nobel per la fisica grazie alle sue ricerche sulla radioattività. Poi nel 1911 ne vinse subito un altro, questa volta per la chimica, con i suoi studi sui raggi X. Non solo, la Curie fu la prima donna a vincere un Nobel, ma fu anche l'unica a meritarne addirittura due. Niente male, no? Dalle scienze agli affari di Stato, altro settore tipicamente e tradizionalmente maschile. Lo diceva già Platone nella Repubblica, ma poi ne è dovuta passare di acqua sotto i ponti prima che Oscar Wilde si ritrovasse ad affermare con quel suo peculiare miscuglio di verità e sottile ironia che la crescente influenza delle donne è l'unica cosa rassicurante nella nostra vita politica. Un secolo più tardi, Hillary Rodham Clinton lo ha preso in parola. Per prima ha azzardato la pazza idea di diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Sono lieta di annunciarvi la mia candidatura alle primarie del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali. In realtà sappiamo che il popolo americano e la storia hanno incoronato un altro vincitore, un'altra prima volta in assoluto, quella di un afroamericano alla guida della Confederazione degli Stati Uniti. Ma l'esposizione in prima persona di Hillary Clinton è stata comunque significativa e si spera abbia inaugurato una stagione. In generale, le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è così difficile. La vicepresidente del Senato Emma Bonino ne è convinta. Le donne dimostrano in qualunque campo di essere migliori degli uomini. Catherine Bigelow è l'ultima di un lungo elenco di donne che hanno conquistato territori tipicamente maschili. Un traguardo, una sfida, che però non sarebbe stata possibile senza l'appoggio di un uomo, un compagno e un collega che al momento opportuno ha saputo dare a Catherine la forza di perseverare nel raggiungimento del suo obiettivo. Il 7 marzo scorso, durante la notte degli Oscar, quest'uomo è seduto proprio nella fila dietro alla Bigelow e come lei aspetta trepidante che Barbara Streisand pronunci il fatidico «And the winner is». Quando scopre di non essere lui il fortunato, la reazione è impeccabile. Applausi e sorrisi per la vincitrice all'insegna, almeno all'apparenza, del più classico fair play. È ancora presto, però, per conoscerlo e per scoprire cosa gli passi davvero per la testa in quei momenti così concitati. Torniamo dalla Bigelow e ripercorriamo i suoi primi passi. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. La canzone che state sentendo è la celebre California Girls dei Beach Boys, inno di una generazione di giovani surfisti e tributo alla solarità delle ragazze californiane, impresse nell'immaginario collettivo per via della bellezza mozzafiato, sfoggiata sulle assolate spiagge che si affacciano sull'oceano. Potrà sembrare assurdo, ma Kathryn Bigelow è tutto questo, e contemporaneamente è tutto il suo contrario. 1,82 m, lunghi capelli castani e occhi verdi. Il fisico e l'aspetto perfetti per correre al rallentatore sul bagnasciuga, strizzata in un costume alla Baywatch. Ma Kathryn, già da ragazza, ha ben altro per la testa. Nata nel 1951 a San Carlos, nella baia di San Francisco, Kathryn è figlia di un piccolo imprenditore e di una bibliotecaria che le trasmette fin da piccola la passione per la cultura. Ad appena 6 anni dipinge i suoi primi quadri. Quella per la pittura resta una passione che coltiva per tutta l'infanzia e l'adolescenza, un'attività tanto convinta e appassionata da saltare ancora fuori con regolarità nelle domande dei giornalisti. No, ormai non dipingo più, ma continuo ad applicare al cinema gli stessi parametri che utilizzavo quando mi occupavo di arte in senso stretto. Cerco di far sì che quello che faccio trovi una giustificazione, intrinseca e non. Cerco di mescolare il divertimento, l'accessibilità dei miei film, con il mio gusto personale. Un po' come facevo con i colori della tavolozza. Mescolo apparenza e sostanza. E c'è una tensione stupenda tra le due stanze. E quando riesci a ricreare l'equilibrio perfetto, beh, quella è arte. L'amore per la pittura la porta a studiare prima al San Francisco Art Institute e poi a vincere una borsa di studio per l'Independent Study Program del Whitney Museum a New York. Sono gli anni 70 e la Grande Mela vive uno dei suoi momenti più fulgidi, artisticamente parlando. Sono gli anni che seguono i segnali lanciati da Andy Warhol e Roy Lichtenstein, anni segnati da innumerevoli lavori di ricerca e sperimentazione e dall'abbattimento dei confini tra cultura alta e bassa, causato dall'esplosione qualche anno prima della pop art. Mentre Susan Sontag cerca di cogliere nei suoi saggi l'essenza del cambiamento che attraversa quegli anni tormentati e Annie Leibovitz cattura nel suo obiettivo ritratti di rockstar per la rivista Rolling Stone, un'altra donna si affaccia sulla ribalta del mondo dell'arte. Si chiama Kathryn Bigelow e la sua forma prediletta d'espressione d'ora in avanti non sarà più la pittura, sarà il cinema. Tra tutte le forme d'arte che si rincorrono nell'America di quegli anni, lei ha scelto la cosiddetta settima. Certamente le lezioni tenute dal regista Miloš Forman alla Columbia University l'hanno influenzata, ma non è solo questo. Kathryn è colta e curiosa. Le piace andare a fondo, sviscerare tutti gli aspetti più nascosti dell'universo che la circonda. Si interessa di filosofia e vuole comprendere i meccanismi che stanno dietro alla costruzione del linguaggio, non inteso come parola, ma come forma di comunicazione in senso lato. Ed è proprio per placare questa sua curiosità che Kathryn diventa caporedattore di Semiotext, prestigiosa rivista di semiotica. Sulle sue pagine le capita di interrogarsi sulla fascinazione della violenza, sulle potenzialità espressive del cinema. Da qui alla voglia di cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio, beh, il passo è breve. Setup era un'analisi del perché la violenza cinematografica è così seducente. Ero molto interessata a ciò che visceralmente è capace di fare il cinema. In Setup, la Bigelow racconta l'aggressione di un uomo a un altro che si ritrova a subire la violenza in maniera piuttosto passiva. Ma alla fine del pestaggio stampa un bacio sulla bocca del suo assalitore. Un esordio decisamente provocatorio per una 27enne nata sotto il sole della California, tanto provocatorio da attirare l'attenzione del filmmaker indipendente Monty Montgomery, insieme al quale ha finalmente l'occasione di girare il suo primo lungometraggio intitolato The Loveless. Dietro alla macchina da presa, la Bigelow inaugura subito una tradizione che continuerà a portare avanti fino agli ultimi recenti successi, quella per l'esplorazione della violenza in tutte le sue forme. Yes. La fascinazione della violenza è uno stimolo fortissimo per Catherine. È frutto della sua curiosità e della sua indole. E certamente è influenzato anche dalla frequentazione dell'ambiente femminista newyorkese, che coinvolge la Bigelow in un curioso esperimento. Il primo e l'unico in cui la vediamo davanti, anziché dietro la macchina da presa. Interrompiamo la consueta programmazione per portarvi questo messaggio speciale dell'esercito delle donne. L'esplosione a cui state assistendo fa parte di Born in Flames, simil documentario femminista diretto dal regista militante Lizzie Borden, che esplora tematiche quali il razzismo, la lotta di classe e la rivoluzione sessuale, in un'ipotetica alternativa democrazia socialista degli Stati Uniti d'America. Va da sé che il film resti una produzione di nicchia e che la performance della Bigelow come attrice non sia delle migliori, ma l'esplorazione di determinate tematiche e la frequentazione di quell'ambiente corroborano la sua sete di cinema e le danno la forza di perseverare nel suo intento. Catherine sarà una regista, e non una regista qualunque. Sarà una donna capace di fare film da uomini e di sfidarli col suo stile energico e muscoloso. Il decennio degli anni Ottanta per la Bigelow si rivela fruttifero. Nell'87 gira l'horror Il buio si avvicina, seguito poco dopo dal thriller Blue Steel, Bersaglio mortale. Il lavoro e gli stimoli creativi non mancano, ma si tratta sempre di produzioni indipendenti e senza grosso ritorno commerciale o di pubblico. Quello che le serve è un incontro. L'incontro con l'uomo che cambierà per sempre la sua vita professionale e per un po' anche quella personale. Siamo ormai alla fine degli anni Ottanta e da un po' a Hollywood circolano voci su una sceneggiatura molto appetibile ma mai presa sul serio dai produttori. Si tratta di una storia di surfisti rapinatori costantemente divisi tra il brivido dell'onda e quello illegale del furto in banca. Un progetto davvero interessante che purtroppo rischia di non vedere mai la luce, come ricorda lo sceneggiatore Peter Iliff. La Columbia Pictures sembrava aver creduto nel progetto, ma poi dopo un paio di mesi di proclami non se n'è fatto più niente. È stata veramente una brutta giornata quella. Il mondo del surf mischiato con la criminalità e l'omicidio. Un racconto adrenalinico perfetto per toccare le corde della sensibilità della Bigelow. Violenza, azione, brivido e persino filosofia. Tutte unite nello stesso irresistibile copione. Sapevo di essere attratta da quella sceneggiatura. Lo sapevo fin dall'inizio. Mi piaceva il paradosso intrinseco alla storia. Due mondi in totale opposizione, l'uno con l'altro. La libertà del surf da una parte e il sistema penale dall'altra. Il sistema contro l'antisistema. Purtroppo si sa che a volte Hollywood è restia alla sperimentazione o anche solo a cimentarsi in un progetto rischioso. Potrebbe costare molti soldi, potrebbe finire male, potrebbero saltare molte teste. E dire che il regista inizialmente designato dalla Columbia Pictures per portare avanti questo progetto di surfisti era niente meno che Ridley Scott, già autore di capolavori assoluti come Alien e Blade Runner. Ma qui ci vuole qualcun altro. Qualcuno che abbia il coraggio di prendersi addosso tutta la responsabilità in caso di fiasco. O meglio ancora, qualcuno che l'acre odore del fiasco non l'ha praticamente mai sentito in tutta la sua vita. Qualcuno come James Cameron. James Cameron. Ormai il progetto era assopito da 4 anni. Ma poi è arrivato James Cameron e ha portato con sé Catherine Bigelow. Hanno salvato la mia sceneggiatura e l'hanno resa un film. Già regista di Terminator e del secondo capitolo della saga di Alien, Cameron agli occhi dei produttori hollywoodiani è sinonimo di successo garantito e di soldi sicuri al botteghino. Esattamente quello che ci vuole per acconsentire a imbarcarsi nell'avventura di un film che potrebbe risultare scomodo. Cameron fa di più. Non solo si autocandida come garante del progetto, decidendo di produrlo in prima persona, ma sceglie di consegnarlo nelle mani di una regista in cui ripone una fiducia sconfinata. È una donna che, come lui, ha una passione per l'azione e la violenza al cinema. Una donna che saprà trattare in maniera degna i surfisti con lobby del furto. Quella donna è sua moglie. Si sono appena sposati. È il 1989. Il suo nome è Catherine Bigelow e non vede l'ora di diventare l'acclamata regista di Point Break. Just a little bit harder. Destini incrociati. Alla fine degli anni Ottanta, James Cameron e Kathryn Bigelow sono molto più che due colleghi. Sono marito e moglie. Nello spietato mondo di Hollywood, lui ha già messo le basi per diventare uno dei registi più rassicuranti dell'intero panorama. Di sicuro non in termini di pacatezza degli argomenti che affronta nei suoi film, ma in fatto di certezze al botteghino. Cameron è persino riuscito a convincere la produzione a dare a Kathryn Bigelow la chance di dirigere un film con un discreto budget. La pellicola si chiamerà Point Break. Arriva l'onda più grossa! Tutti tuffi giù nel tubo! È una scarpata di 8-10 metri! E nel buco del culo! In quel momento, nel buco del culo! Non ti ci entra neanche uno spillo! E senti l'onda che si mette a ruggire! E ti spinge avanti come... come se fossi il tappo del radiatore di una locomotiva d'un treno merci! L'adrenalina è palpabile in Point Break, così come l'esaltazione per le meraviglie e le insidie di una vita vissuta costantemente sul filo del rasoio. La Bigelow non si tira indietro, anzi dipinge lo scenario californiano con vigore, avvalendosi anche della bravura del cast. Il novellino Keanu Reeves, qui al suo primo ruolo importante, e il veterano Patrick Swayze, vero e proprio faro dello stardom hollywoodiano. Molto spesso le donne fanno film da maschi molto meglio di quanto non farebbe un maschio. Questo succede perché loro hanno la capacità di fare un passo indietro. Non devono per forza mostrare di avere i muscoli sul set. A loro interessa solo fare qualcosa di veritiero, di credibile, innalzare il livello di credibilità del film. La californiana Kathryn Bigelow sembra essere tornata in California, nella Mecca del cinema, per sfatare il mito della bionda da spiaggia tutta curve e niente cervello. Il suo Point Break è muscoloso, coraggioso, adrenalinico. Critica e pubblico lo accolgono a braccia aperte. Niente di tutto questo sarebbe successo se non fosse stato per James Cameron, marito della regista e regista a sua volta, che ha creduto fermamente nel progetto. Quando 20 anni più tardi, la sera del 7 marzo 2010, al Kodak Theater di Los Angeles, Kathryn stringerà fiera il suo Oscar, dovrà ringraziare l'uomo che sta seduto lì, a pochi metri da lei, commosso e vagamente compiaciuto. Quell'uomo naturalmente è James Cameron. Facciamo un passo indietro e andiamo a conoscerlo un po' più da vicino. Se c'è un posto lontano, idealmente fisicamente, dall'assolata California dell'industria cinematografica, quel posto è Chippewa, nella regione canadese dell'Ontario. L'unica attrazione del luogo, per intenderci, sono le celeberrime cascate del Niagara. È qui che nel 1954 nasce il futuro regista sbancabotteghini James Cameron. Fin da piccolo James nutre a dovere la sua immaginazione, ereditando la passione del padre, un esperto ingegnere elettronico, per il genere fantascientifico. Sono cresciuto immerso nella fantascienza. Mi piaceva leggere i libri e guardare film che raccontavano storie di fantascienza. Quando i Cameron si trasferiscono a Bray, in California, James ha ormai 17 anni. Finisce la high school, si iscrive al college alla facoltà di fisica. Ma star fermo dietro ai banchi o seduto alla scrivania in compagnia dei libri non è certo il suo forte. È un giovane brillante, un vulcano di idee, però non sa ancora con precisione come né dove convogliarle. Molla la facoltà di fisica, si iscrive a quella di inglese e alla fine, dopo qualche semestre di tentennamento, decide di lasciar perdere tutto. Il college non fa per lui. I percorsi tradizionali non fanno per lui. Saprà trovare la sua strada, ma dovrà farlo a modo suo. Una mente vulcanica è certamente una benedizione, ma non garantisce 3 pasti al giorno, soprattutto se mamma e papà ti hanno tagliato i viveri perché hai scelto di mollare il college. Ben venga qualunque lavoretto per James Cameron, dal camionista al carrozziere, pur di continuare a fantasticare nel tempo libero. Ho fatto il meccanico, ho fatto il bidello. Hai presente quando sei a scuola e ti annoi e attacchi la cicca sotto il banco? Ti sei mai chiesto chi la toglie da lì? La toglievo io. È un lavoro ingrato. Camionista o inserviente di giorno, prolifico scrittore di notte. Quando cala la sera, Jim si rifugia nel suo mondo fantascientifico. Abbozza sceneggiature, disseziona idee, ricama con l'immaginazione sulle trame di storie già sentite. Finché una sera, nel 1977, decide di andare al cinema. La musica che sentite è inconfondibile. È la solenne apertura di Guerre Stellari, capolavoro di George Lucas del 1977. James Cameron è folgorato dall'intreccio, dall'ambientazione, dagli effetti speciali. Con la stessa rapidità e convinzione con cui aveva mollato il college, Jim molla i suoi impieghi saltuari e si butta nell'industria del cinema, partendo sempre rigorosamente dal basso. Inizia come fabbricante di modellini in scala per i Roger Corman Studios. Ha modo di studiare dall'interno il funzionamento della macchina produttiva cinematografica, scoprendone i meccanismi tecnici e quelli burocratici, nel tentativo di farsi notare dagli addetti ai lavori. Il suo momento non tarderà ad arrivare. Nel 1981 Cameron viene nominato responsabile degli effetti speciali del sequel di Piranha. Sicuramente un film dimenticabile, ma per lui rappresenta l'occasione di una vita intera. Il regista designato, infatti, molla l'incarico a poche ore dall'inizio delle riprese. Cameron sfodera tutta la sua intraprendenza e si offre come volontario per sostituire il regista in fuga. È la sua prima volta dietro la macchina da presa, ma sente di avere già imparato tutti i trucchi del mestiere. Se è vero che Piranha 2 non entra di certo negli annali del cinema di qualità, è anche vero che Cameron, da questa esperienza, impara moltissimo e trova il coraggio di proporsi nuovamente come regista, questa volta azzardando una sceneggiatura tutta sua. È la storia di un robot sicario venuto dal futuro con il preciso intento di uccidere. Le macchine emersero dalle ceneri dell'incendio nucleare. La loro guerra per sterminare il genere umano aveva infuriato per anni e anni, ma la battaglia finale non si sarebbe combattuta nel futuro. Sarebbe stata combattuta qui, nel nostro presente, oggi. Terminator, ideato, scritto, diretto da James Cameron, è un successo strepitoso. I 6 milioni e mezzo di dollari di budget iniziale si trasformano in oltre 78 milioni di incassi. Per Cameron si spalancano le porte della Hollywood che conta. Prima dirige il sequel di Rambo, poi viene chiamato a occuparsi di quello di Alien. Ormai il nome James Cameron è sinonimo di successo garantito se si tratta di film muscolosi dove l'azione la fa da padrona. Ma a ben guardare, nel caso di Alien, non sono stati i muscoli ad attirare l'attenzione del regista. Uno dei grossi motivi per cui ho fatto Aliens è stata la forza del personaggio interpretato da Sigourney Weaver. Il ritratto del tenente Ripley, interpretato dall'androgina Sigourney Weaver, è quel che più attrae James Cameron. La sfida è proprio quella di tratteggiare una donna forte, combattiva, complessa. Una donna che conservi una femminilità latente, ma che dimostri agli occhi degli uomini di sapere il fatto suo. Per me è sempre stata una sfida, essendo un uomo, tratteggiare nei miei film personaggi femminili, renderli molto più di semplici personaggi con le tette. E allo stesso tempo non puoi trattare una donna forte come un semplice guerriero combattente senza anima. Le donne sono molto più complicate di così. Una donna come quella che proprio a partire dalla metà degli anni Ottanta sta facendo traballare il suo primo matrimonio. James Cameron è sposato con Gail Ann Hurd, una donna che ha avuto così tanta fiducia in lui da permettergli di dirigere Terminator nonostante fosse ancora un regista alle prime armi. Ma Cameron ha un'infatuazione, una cotta per una sua pari, per una donna abituata come lui a non occuparsi delle scartoffie e dei problemi organizzativi, ma a sedersi dietro alla macchina da presa. L'ha conosciuta a Hollywood, anche se lei non fa ancora parte del giro. Il suo nome è Kathryn Bigelow e Jim crede che il suo modo di ritrarre la violenza sia dannatamente sexy. Questa ragazza ha talento da vendere. Le serve solo qualcuno che creda in lei. Le serve qualcuno che convinca gli studios a investire un po' di soldi. E da un punto di vista economico, James Cameron è l'uomo giusto. Quello che può aprire qualunque porta. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo le carriere di due registi, James Cameron e Kathryn Bigelow. Siamo alla fine degli anni Ottanta e James Cameron è già un acclamato sbancabotteghini, mentre la Bigelow ha bisogno di una spintarella. Cameron è l'uomo perfetto per dargliela, per convincere chi gestisce i soldi a Hollywood che Catherine è un ottimo prodotto su cui investire. Cameron ha aiutato la Bigelow a far risorgere il progetto di Point Break, storia di surfisti dediti alla rapina, a lungo snobbata dalle case di produzione cinematografiche. L'adrenalinica Catherine, con la supervisione del blasonato Cameron, dirige un ottimo film, che a fronte di 24 milioni di budget ne incassa ben 83. Ecco cosa serve per avere la fiducia di chi investe i soldi a Hollywood. E questa fiducia si traduce immediatamente in un secondo progetto, scritto e prodotto ancora una volta da James Cameron in persona. Si tratta di Strange Days, storia fantascientifica che coinvolge un ex poliziotto del Dipartimento di Los Angeles dedito a traffici piuttosto loschi, ambientata a ridosso del Capodanno del 2000. Non per sapere i fatti tuoi, ma te lo devo chiedere. Sei uno sbirro? Capisco perfettamente, no, non lo sono. Lo capisci. Avvocato, giusto? Avvocato? Giusto? Esatto. L'ho capito dai mocassini. Legge dello spettacolo, direi, sta calmo. Sapere quello che vogliono le persone è il mio mestiere, sapere cosa nascondono i loro occhi. Ok, dimmi, hai mai geccato? Hai mai filo viaggiato? No, io no, no. Oh, ho un cervello vergine, bene. Bene, ti faremo cominciare bene, ok? Giacare e filo viaggiare sono due termini per definire la nuova droga del XXI secolo, almeno secondo Strange Days. Si tratta del cosiddetto SQUID, un sistema direttamente collegato al cervello che è in grado di registrare le esperienze e gli input sensoriali su un dischetto, per poi rivivere il tutto all'infinito grazie a un apposito lettore. Grazie allo SQUID, un tranquillo avvocato, se vuole, può provare l'ebbrezza di fare una rapina in banca o tradire la moglie senza mai spostarsi dalla sua poltrona. Lo scenario apocalittico, le ambientazioni buie, le interpretazioni dolenti fanno immediatamente di Strange Days un film di culto. Insieme Cameron e la Bigelow hanno fatto centro un'altra volta. Nel frattempo i due non stanno più insieme. Il loro è stato un matrimonio lampo, dal 1989 al 1991. Ma la fine della liaison sentimentale non ha minimamente scalfito l'affetto e il rispetto reciproco, specialmente sul piano professionale. E mentre Catherine nel 1996 si gode i frutti del successo di Strange Days, Cameron lavora alacremente al suo nuovo progetto. Stavolta non si tratta più di un'incursione nella fantascienza, ma della riscrittura romanzata di una vicenda realmente accaduta. Il naufragio di un transatlantico affondato nel 1912 nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Vorrei giusto fare un piccolo sondaggio sulla canzone di Titanic. A quanti di voi ancora piace quella canzone? Quanti di voi non ne possono più? Per favore, siate sinceri. Il resto è praticamente storia. 200 milioni di dollari di budget e quasi 2 miliardi di incassi. Milioni di litri di lacrime versate e una canzone dalla quale stentiamo tutti a liberarci. È inevitabile che alle già esorbitanti cifre degli incassi di Titanic si aggiunga una lunghissima lista di premi, ben 11 gli Oscar, tra cui spiccano quelli per il miglior film e per il miglior regista, consegnato direttamente nelle mani di un esaltatissimo James Cameron. I'm the king of the world! Difficile dimenticarsi un trionfo del genere, soprattutto se in molti ti davano già per spacciato. Durante la lavorazione di Titanic si rincorrevano le voci su un già conclamato fallimento del progetto, protrattosi almeno 6 mesi più a lungo del previsto e lievitato enormemente nei costi a causa delle ossessioni di Cameron in materia di effetti speciali. Lui stesso ricorda così quella memorabile serata. Me la ricordo in maniera piuttosto vivida. È stata una sera al di là della realtà, più vicina alla dimensione del sogno. All'ultimo istante, prima che pronunciano il tuo nome, sei sicuro che non sarai tu a vincere. Ci scommetteresti qualsiasi cosa e quasi ti senti sollevato. Poi invece dicono il tuo nome e ti rendi conto che hai vinto e dici, oh no, devo andare là sopra e fare un discorso. Ma l'incredibile successo di Titanic induce Cameron paradossalmente a prendersi una pausa di riflessione. Mentre tutti gli studios sarebbero disposti a coprirlo d'oro pur di fargli replicare gli incassi stratosferici appena ottenuti, lui si rintana nel suo studio per lavorare alacremente a un nuovo misterioso progetto. A metà degli anni 90 mi sono seduto ad un tavolo e ho deciso che avrei fatto un film che avrebbe spinto sempre più in là la barriera degli effetti speciali. Quel film ovviamente è Avatar. E mentre Cameron sul fantomatico pianeta Pandora dipinge un universo totalmente nuovo e avulso dalla realtà quotidiana, la Bigelow invece sceglie di avvicinarsi al modus operandi del documentario, andando a riprendere da vicino una realtà dura e sofferta, come quella dei soldati statunitensi alle prese col conflitto iracheno. È proprio da questa sete di verità che nasce The Hurt Locker. Credo che la cosa che mi ha affascinata di più sia stata l'idea che il tutto fosse tratto da una storia vera, dall'esperienza di Mark Ball, un giornalista embedded a Baghdad, in Iraq, che ha vissuto a stretto contatto con una squadra di artificieri dell'esercito americano. Le strade di James Cameron e Catherine Bigelow ormai si sono decisamente separate. Avatar è diventato il film più costoso della storia e anche il più remunerativo. 500 milioni di dollari di budget e quasi 3 miliardi di incassi in tutto il mondo. James Cameron ha superato se stesso, battendo il record già conquistato con Titanic. La Bigelow, invece, ha scelto un film scomodo, ancorato alla realtà, e ha saputo renderlo appetibile, nonostante avesse a disposizione solo 15 milioni di dollari di budget. La prova evidente del distacco tra i due colleghi ed ex coniugi l'abbiamo avuta il 7 marzo del 2010, durante la notte degli Oscar. Innanzitutto è straordinario essere qui, in compagnia dei miei colleghi che hanno ricevuto la nomination. Tutti registi davvero fenomenali. Loro mi hanno ispirata e io li ho ammirati per anni, alcuni addirittura per decenni. Tra i colleghi che ascoltano la Bigelow fare il suo discorso di ringraziamento c'è anche James Cameron, suo ex marito, suo ispiratore di alcuni tra i suoi più grandi successi. Lui concorre alla statuetta con Avatar, ma stavolta non riesce a bissare la strepitosa sfilza di premi ottenuta negli anni 90 con Titanic. Questa sera non c'è spazio per lui. Questa sera i riflettori e gli applausi sono tutti per Catherine. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.